Radio 3 Lezioni di musica. Luca Mosca. La Sinfonia numero 1, opera 13 di Piotr Ilich Tchaikovsky. Buongiorno, sono Luca Mosca. Stiamo per cominciare un'avventura perché stiamo per assistere al dispiegarsi di queste sei sinfonie veramente meravigliose. Sono stranote la quarta, la quinta e soprattutto ancora di più la sesta. Forse la prima, la seconda e la terza sono di più rara esecuzione, soprattutto la terza. Ma direi che la prima, che ha scritto nel 1866, quindi aveva 26 anni, è già una prova straordinaria delle capacità costruttive, strutturali e di orchestrazione, veramente, che arrivano già qua a dei punti veramente stratosferici. È chiaro che abbiamo sentito la scorsa settimana il concerto per pianoforte numero 1 e il concerto per violino, dove i due solisti la facevano da padrone, insomma, è chiaro che erano loro, no, i protagonisti, e loro avevano tutte le raffinatezze possibili e immaginabili di scrittura. Qua invece, nelle sei sinfonie, Tchaikovsky si può scatenare, no, nelle sue capacità proprio direi compositive del colore, cioè lui è un compositore del colore, lo sentiremo proprio fin dalla prima nota di questa sinfonia. Io direi di sentire le prime quattro battute, che sono solamente due note, fatte dai primi e dai secondi violini. Ecco, questo inizio è molto particolare perché è fatto da queste due note. Però non è fatto da queste due note ribattute come potrebbe essere. No, se io ribatto viene questo. Immaginiamoci di avere i primi violini che non fanno così, ma fanno così. E i secondi violini che fanno il contrario. Cioè, i primi, i secondi. L'effetto complessivo è, no, è qualcosa che è simile alle note ribattute, ma in realtà è qualcosa di vibrante, qualcosa che ritroveremo in Ligeti nel 1970, in un pezzo per clavicembalo che si chiama Continuum, proprio con le stesse note, si bemolle sol, sono le stesse note dell'inizio di Tchaikovsky. Sentite. E questo è fatto, questo tremolo velocissimo di Ligeti è fatto sulle due tastiere del clavicembalo. Sapete che ha due tastiere il clavicembalo, una sotto e una sopra. Io posso suonare sulle stesse note, velocissimo, no? un tremolo come questo, e l'effetto è molto simile a questo dell'inizio di sovrapposizione, no? Dei primi e dei secondi violini. Quindi l'invenzione, capite, è anche in un semplice inizio come questo, che non è la solita cosa, è già un'invenzione compositiva. Sentiamo. Ecco il tema. Flauto e fagotto. A due ottave di distanza. Stravinsky lo farà 100 volte nella Sagra della Primavera. Viole. Sentite i flauti? Che fanno un controcanto molto secco. Da una parte c'è la morbidezza delle viole, dall'altra la secchezza. Sentite, adesso è morbido, anche i flauti sono morbidi. Accordo strano. Morbidezza degli archi, secchezza dei fiati. Accento. Adesso la secchezza invade il campo. Questo prelude a un ritorno magico della morbidezza. È duro, secco. Sembra quasi un esercizio adesso. Volutamente, come vi ho detto l'altra volta, una concertina raffredda la musica per poi arrivare al massimo del calore. Qui sembra Prokofiev, se non John Williams. Meglio Prokofiev di John Williams. Molto meglio. Di nuovo, apertura alla morbidezza. Prokofiev. Secchezza. Con la morbidezza del tema ai legni. Gli archi sono impazziti e arrivano a un punto culminante. e questo prelude al tema di tutta l'orchestra. Per la prima volta tutta l'orchestra fa il tema. Il tema non è mai stato così deciso. Questo prelude al secondo tema, che invece è dolcissimo. Eccolo. Violoncelli e fagotto è un classico di Tchaikovsky. Ecco, questi due temi, no? Il primo tema. Vedete che sono quattro note discendenti, le abbiamo già viste nel concerto del pianoforte orchestra. Con questo ritmo, ta ta ta ta, ta ta ta ta, il secondo tema è. Capite? Era. E sentite il secondo tempo che sentiremo fra pochi minuti. Caspita, è un continuo. Cioè, sono sempre le stesse quattro note che riemergono nei vari tempi. Vedrete che lo ritroveremo anche nello scherzo, queste quattro note discendenti. E anche nel secondo tema dell'ultimo movimento. Allora, adesso andiamo in un punto fantastico. Fantastico proprio di orchestrazione. Come orchestrato, perché questa sinfonia si chiama Sogni d'inverno. Non ce ne importerebbe nulla, insomma, perché il primo tempo si chiama Sogni di un viaggio invernale. In effetti ci sono dei momenti in cui Tchaikovsky mima il freddo, come un essere umano può reagire al freddo, insomma tremando. In questo punto straordinario, le quattro note discendenti che adesso cominceremo a conoscere, le abbiamo già conosciute, no, in questi primi due temi, queste quattro note discendenti sono fatte dagli archi divisi. Cosa vuol dire? Che i violini primi, invece di suonare tutti insieme la stessa cosa, suonano due cose differenti. La stessa cosa i secondi violini, la stessa cosa le viole, la stessa cosa i violoncelli. Che cosa fanno? In realtà, i primi violini suonano con l'arco. E quindi. Quindi legato, diciamo così. Invece, i secondi violini suonano la stessa cosa pizzicato. Contemporaneamente, quindi l'effetto è qualcosa del genere. Al pianoforte si sente meno, ma sentiamolo, l'effetto straordinario all'orchestra. È arco e pizzicato contemporaneamente. Senti come sembra quasi che tremi dal freddo, che batte i denti. Attenzione alla coda, meravigliosa, un tema eroico. Ecco, questo tema eroico, no, temeremmo il peggio se continuasse così, invece comincia lo sviluppo e ne fai l'esatto opposto, c'è qualcosa di stentato. Questo è il tema. Cioè, subito comincia a zoppicare invece di essere eroico. Di nuovo. Capite, in 5 secondi quel tema dei corni così eroico è diventato uno zoppicchio. Ecco, adesso andiamo in un passaggio che è quella che si chiama riconduzione, cioè dopo lo sviluppo no, il compositore ci deve riportare al primo tema, quel tarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirar sospensione magica. Sentiamo. Già lo sentiamo qua, no? Intuiamo che è lui dai violini. Adesso ci sono solo le prime due note che vengono ripetute. Pausa. Adesso solo il ritmo. Tarirarirarirara. Rallenta. Ancora rallenta di più. Sarebbe il ritmo delle prime due note del tema amplificato, però, e anche gli intervalli sono amplificati. Un momento di sospensione straordinario. Ancora più in alto. Adesso naturalmente comincia a crescere e a intensificarsi il ritmo. Ed ecco. Fantastico. Cioè, questa è veramente una lezione di musica di Tchaikovsky, di come si fa a scrivere musica, cioè di come si fa a giustificare le cose, cioè a rendere conseguenziali gli avvenimenti, e in una forma che poi è standardizzata, quella della forma sonata, no? Che già adesso era morta e sepolta in sostanza, però lui insieme a Brahms riesce a far vivere, non a rivivere, a far vivere ancora la forma sonata, in un momento in cui tutti scrivevano ancora i poemi sinfonici, cioè tutti scrivevano i poemi sinfonici, no? Erano stati influenzati da Wagner, così lui fa le forme chiuse ma in una maniera stratosferica. Sferica, vi ripeto, perché questo momento è un momento magico di questa sinfonia. Ecco, possiamo andare in un altro momento magico che è proprio la coda, cioè la fine, e sentiamo come il tema venga. Abbiamo un procedimento opposto, cioè come prima abbiamo visto un momento di formazione del tema, no? Queste prime tre note che piano piano diventano poi la ripresa, qua invece abbiamo il tema, no? Nella sua completezza, che poi comincia a essere sminuzzato e a morire. Sentiamo. Ecco di nuovo il tremolo lighettiano. Tema. Attenzione adesso al controtema, quello staccato, secco. Sentite come lo sminuzza? Ed ecco l'ultimo accordo. Ecco, questo gioco di sicurezza e insicurezza, no, è un continuo nella musica di Tchaikovsky, di completezza e incompletezza. Arriviamo al secondo movimento. Il secondo movimento è tutto basato sul timbro. Sentiamo proprio come il tema, basato sulle quattro note discendenti, viene subito esposto dall'oboe. Poche battute dopo sono le viole e i flauti all'unisono, con i flauti nel registro grave, a riesporre il tema. Sentite. In sostanza questo movimento è una continua ripetizione della stessa cosa, però sempre con timbri diversi. Sentite il flauto. È all'unisono con le viole, ma se ci badate bene si sente. Eccolo. Insieme alle viole. Adesso andiamo a sentire sempre questo tema ai violoncelli. Eccolo. E questa volta quello che era l'accompagnamento del primo movimento si trova in lontananza, nell'acuto, agli archi. Un'altra ripetizione del tema, questa volta con i primi violini e il clarinetto insieme. Ogni volta è un'alchimia di colori diversi. Sentiamo. Eccolo. I violini non hanno questo suono. È il clarinetto insieme ai violini che dà questo suono ai violini. arriviamo a questo punto alla variazione culminante, che è quella con i due corni. Sentite come si può fare una musica ripetendo sempre la stessa cosa, però con timbri diversi. Lo farà Ravel con il Bolero molto tempo dopo. Passiamo rapidamente adesso al terzo movimento, che è veramente un gioiellino. In realtà questa è la trascrizione di Lo scherzo della sonata in dosis minore, che è un pezzo precedente, peraltro non molto bello. Questo è il tempo più bello di quella sonata in dosis minore. Trasportato un semitono sotto in do minore, diventa lo scherzo di questa sinfonia, e anche col trio cambiato. Sentiamo proprio l'andamento ritmico di questo tre ottavi, cioè un tempo in tre. In tre veloce. Non è un, due, tre, un, due, tre, un, due, tre, ma tutto questo scherzo si basa su un tempo un, due, tre, un, due, tre, due, tre, un, due, tre, pa, pa, pa, pa. Quindi non è la regolarità del un, due, tre, ma un, due, tre, un, due, tre. Il ritmo spostato della prima battuta ce lo fa anche questo zoppicare. Sentiamo. Ta, ta, ta. Questo è chiaramente un balletto. Sentite gli accenti degli archi, sempre sui tempi spostati. Di nuovo. 3, 2, 3, 2. Attenzione. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ecco, è tutto un ritmo leggerissimo, no? Che si basa su piccoli spostamenti di accento sul primo movimento, sul secondo movimento o sul terzo movimento. È un gioco che nei balletti Tchaikovsky sarà assolutamente inimitabile nell'uso di questo tipo di spostamento di accenti. Andiamo adesso alla parte centrale di questo scherzo. Parte centrale di questo scherzo che è un classico valzer meraviglioso tchaikovskiano. Io vorrei che però ascoltassimo più che la melodia dei primi violini, bellissima, bellissima. Poi ve l'ascoltate bene da soli. È una melodia bellissima. Valzer di Tchaikovsky sono fra i più belli, fra tutti i valzer dell'Ottocento. Ma sentiamo invece le parti secondarie, perché fa dei giochi di prestigio assolutamente ammirevoli dal punto di vista dell'orchestrazione. Sentiamo per esempio i clarinetti e i fagotti, proprio all'inizio di questo tema, come mimano il suono del corno che verrà dopo. Sentiamo. Sentite, quello non è un corno che si sente sotto. Adesso ci sono i corni. Di nuovo clarinetti e fagotti. Sono delle leggere intrasparenze, si sentono queste note lunghe, di nuovo i corni. Sentite la nota lunga, con gli oboi. Clarinetti e fagotti che fanno le note lunghe. Adesso i legni fanno il tema e sono i violini che fanno il controcanto, sentite? Di nuovo clarinetti e fagotti nelle note lunghe, si aggiungono i flauti, i legni fanno il tema e i violini il controtema. Attenzione, controcanto bellissimo del flauto. Eccolo, sentite? Clarinetto, porno. Flauto. Oboe. Flauto. Clarinetto. Porno. Flauto e clarinetto. Sentite che meraviglia adesso i flauti e i clarinetti. Come rispondono ai violini, è tutto vivo. È una musica che vive. I violini adesso si eccitano. Il tema passa ai clarinetti e ai fagotti. Ecco gli accenti che tornano. Ecco gli accenti spostati. Quindi il valzer sta finendo. Siamo vicini alla ripresa dello scherzo. Eccolo. Ma ancora no, pausa. Pausa. L'ha appena accennato. Eccolo la ripresa. Ma sentiamo la fine di questo scherzo, che è un gioiello, perché improvvisamente diventano protagonisti timpani con il ritmo taratanta, tintatan, taratanta, tintatan. E quindi il tema del trio, il tema che abbiamo appena sentito del valzer, no, ha la base del ritmo dello scherzo. Sentiamo. Andiamo direttamente all'ultimo movimento. Ultimo movimento che comincia con un tema russo. Tipico tema russo, ma alla fine, dopo averlo esposto in questa maniera, no, dispiegata, ecco che lo sentiamo frammentato. Sentiamo. Eccolo. Timpani. È l'inciso iniziale del tema russo. Di nuovo i timpani. È un uso dei timpani quasi bartocchiano. Vedete come diventano minacciose queste note iniziali? Adesso comincia a accelerare e a crescere. Sembra una macchina che si mette in moto. Adesso è diventato maggiore, da minore, da modo minore drammatico, è diventato, tra virgolette, allegro. Si sveglia. Le prime tre note. Re, mi, re, re, re, mi, re, re, re, mi, re, re. Ed ecco il tema. Eccolo. Si è formato il tema. Vedete che qui l'orchestra si dispiega subito tutta quanta insieme. Ma qui c'è un colpo di scena. Il tema diventa il soggetto di una fuga. Sentite. Questa fuga ha funzione di ponte che porta al secondo tema. passiamo al secondo tema, che è il tema dell'introduzione. Russo. È bellissimo il suono che nasce da questo passaggio. Perché questo passaggio è fatto con il fagotto e le viole, no, con note lunghe, e il pizzicato dei violoncelli. Quindi è un po' quello che aveva fatto prima, no? Insieme i primi violini facevano legato e pizzicato, la stessa cosa. E qui succede con il fagotto e i violoncelli. Vi do appuntamento a domani con la seconda sinfonia. Un saluto da Luca Mosca. Radio 3 Lezioni di musica. A cura di Paola Damiani. Potete ascoltare la Sinfonia numero 1, opera 13 di Piotr Ilich Tchaikovsky dal sito radio3.rai.it cliccando su Classica Radio 3.